Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno, bentrovati, mi auguro ben svegliati. Spero che siate scesi dal letto col piede giusto, perché l'umore del mattino condiziona quello dell'intera giornata, o quasi. Siete d'accordo? Ditemi la vostra e fatemi sapere se il vostro umore da stamattina è cambiato. Come e perché? 800 24 00 24. Se al mattino penso oggi sarà una giornata difficile, la giornata tenderà ad essere proprio così. Il mio inconscio si caricherà di immagini negative, quindi di attese negative. L'inconscio mi pilota e vuole avere ragione, perciò fa in modo che sia giusto quello che avevo pensato. La giornata sarà difficile. E io potrò dire a me stesso: che cosa ti avevo detto? Se invece al mattino scelgo di visualizzare immagini meravigliose e positive di me stesso in varie situazioni, la giornata si svolgerà in questo modo. In questo senso, i pensieri che faccio su me stesso sono creativi. Kay Pollack. Ma per chi stamattina non si è ricaricato con pensieri positivi, offriamo un'altra chance, un incontro ricaricante. Secondo me è proprio quello che ci vuole. In linea con noi abbiamo Giacomo Poretti, come amo presentarlo io, il bello del trio. Ciao Giacomo. Buongiorno, e anche questa mattina è così, sono per davvero il più bello del trio. Eh sì, so. Ma sempre, direi tutte le mattine, Giacomo. Fresco come una rosa. Senti, ti sei svegliato fresco come una rosa stamattina, come è andata? Ma devo dire che in genere è abbastanza così, mi sveglio sempre abbastanza positivo. Poi devo dire che da quando c'è un bimbo piccolo, anche se uno c'ha qualche pensiero un po' così, un po' ombroso, vai lì nella sua cameretta e lo vedi dormire e ti si apre. È vero. Ti si apre l'universo. Ho questa fortuna, io e mia moglie abbiamo questa fortuna, come credo tanti genitori. È una fortuna grande, è vero, basta fare un saltino nella camera dei bambini, vederli così placidamente addormentati e riprendi un po' le misure. Sì, un po' così, sì. Senti Giacomo, ma tu dormi con le tapparelle aperte o chiuse? No, io dormirei in qualsiasi situazione di luce, per cui preferirei anche con la luce, però per esempio mia moglie deve chiudere tutto e quindi vedi, mi adeguo, però io dormirei, grazie a Dio, quando c'ho sonno dormo e quindi non mi faccio problemi. Senti, ti svegli da solo, dato che parliamo di risvegli, o hai bisogno della sveglia? Diciamo che ho bisogno della sveglia, perché... un po' per il lavoro, un po' col bimbo piccolo, punto la sveglia e mi sveglio molto presto, intorno alle 6 del mattino, così almeno ho un'ora e mezza, due ore per poter pensare a scrivere al mio lavoro, perché poi quando si sveglia quella peste, che sarà deliziosa guardare, ma è anche una peste. Senti, tra l'altro tu stai scrivendo la tua autobiografia, pezzi della tua vita. Ma sì, non è che sia proprio un'autobiografia, tecnicamente la potremmo definire così, una specie di autobiografia romanzata, pezzi di vita riraccontati, sì, una cosa un po' così. Io non vedo l'ora di leggerla. Sarai una delle prime a ricevere il manuale. Veramente? Devi avere pazienza almeno fino a ottobre. Però, sì, va bene, io aspetto. Vabbè, sì, cioè, tanto va bene, intanto tu ci racconti. Senti, ma ritornando ai tuoi risvegli, quindi tu quando ti svegli la metti un po' prima la sveglia e scrivi anche le tue giornate? Riesco a scrivere solo il mattino, quando sono... ci sono delle persone che se sono belle cariche al mattino e altre invece alla sera tardi. Io il meglio di me stesso lo do nelle prime ore della giornata. Dopo resisto, però sono un po' più rinco, come si dice in gergo, no? E quindi se devo scrivere al mattino presto. Senti Giacomo, e tu adesso voglio presentarti il professor Luigi Ferini Strambi, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Forse l'hai già incontrato in una trasmissione di Essere Benessere, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Il professor Ferini ha ascoltato la tua intervista e immagino che abbia già fotografato il tuo tipo quando hai detto: beh, io rendo bene al mattino. Il nostro Giacomo è un'allodola. Sì, sicuramente, sicuramente è una allodola, comunque insomma una persona che tendenzialmente appunto ha delle buone performance al mattino appena sveglio, il fatto stesso di poter lavorare appunto e lavorare meglio nelle prime ore del mattino ci dà indicazione di questo. Tra l'altro la cosa importante è comunque una persona che ha un buon rapporto col sonno, perché dice appunto che dorme comunque, quando ha sonno dorme, quindi non ha particolari difficoltà. Questo è importante ricordarsi anche che, visto che abbiamo parlato appunto di allodole, le allodole, cioè i soggetti che tendono ad avere un sonno, diciamo così, anticipato, con delle buone prestazioni al mattino, sono comunque persone che hanno comunque un sonno normale, come peraltro normale ce l'hanno i gufi, cioè quei soggetti che invece vanno a letto molto tardi alla sera e poi però hanno la necessità di svegliarsi al mezzogiorno, all'una. Ecco, soggetti che hanno un sonno perfettamente normale, basta che si dia loro la possibilità di collocarlo nel momento giusto, quando, secondo le indicazioni del proprio orologio biologico interno, il sonno va collocato. Quindi, Giacomo, non solo il bello del trio, ma aggiungiamo anche all'odola. L'allodola del trio. Non ti dico che animali sono gli altri due, ma te lo dirò la prossima volta. Va bene, grazie Giacomo, ti abbraccio, grazie buona per giornata, essere stato con noi, buona grazie. Giornata. Ciao, Marco, ciao. Buongiorno, ci chiama da Biella, 800 24 00 24, ben svegliato, ben arrivato, benvenuto. Grazie mille, grazie. Niente, io chiamavo perché io questa mattina mi sono svegliato, ahimè, alle 5:30 con un pensiero dato, ahimè, da una cartella di Equitalia che mi è arrivata nei giorni passati. Sì. E quindi col pensieri abbastanza grigi. Il tempo poi qui oggi non aiuta assolutamente, perché è una giornata grigia, piovosa e di quelle veramente, veramente molto brutte. Questa mattina avevo mia figlia, perché da bravo babbo separato ce l'ho nei giorni alternati. Mia figlia ha 8 anni, sta attraversando un periodo un po' particolare perché è sotto una terapia che sta facendo, non mi va adesso di specificare la terapia, sì. Però niente, ho visto mia figlia come si è svegliata stamattina col sorriso, nonostante la pioggia, nonostante tutto, e quello che mi ha fatto cambiare l'umore è stata nel portarla a scuola, nel vederla comunque contenta, con uno zaino più grosso di lei, con i problemi, sì, che può avere addosso. E quindi capire che forse a volte i problemi che ci facciamo noi ce li costruiamo anche noi, forse a volte. E a volte anche da un bambino, da un semplice sorriso di un bambino, da come affronta lei questo periodo, e mi credo che è una cosa un po' pesante, ho preso un altro grosso insegnamento che oggi mi ha fatto prendere in ufficio fischiettando, nonostante il tempo e tutto. E anche la cartella di Equitalia vedremo di affrontarla. Certo, e ce la faremo. Grazie Marco per aver condiviso questa bella esperienza con noi. Ci ha fatto davvero un regalo. Un bacio alla sua bambina. Grazie mille. Suona la sveglia come ogni mattina, ma non è un dramma, no, è un'orchestra che vibra e diffonde nell'aria musica dolce come ginestra. Si fonde con i suoni di questa città che è sempre fredda e non ha tempo per godersi a tutta questa meraviglia, il suono dei tuoi passi delicati. Bene, l'arte del risveglio, un'arte da imparare, dato che ogni giorno la mettiamo in pratica. C'è chi si sveglia fresco e riposato, presente, chi invece al risveglio lento si sente impacciato, annebbiato, proprio incapace anche di eseguire compiti più semplici. Voi a che categoria appartenete? Io penso a entrambe, tutte e due, dipende dai giorni. Professor Ferini Strambi, benzina o diesel? Questo potremmo, il mondo si divide un po' in due al momento di alzarsi al mattino. Sì, certo, questo dipende appunto, dicevamo prima, dal cronotipo che ci caratterizza, e quindi noi abbiamo fatto anche degli studi in questo senso, abbiamo visto come al risveglio, al mattino, il cervello, comunque la corteccia cerebrale in particolare, non si riattiva immediatamente, però i soggetti che sono appunto delle allodole hanno una riattivazione del metabolismo cerebrale nel giro di pochi minuti. I soggetti invece che sono appunto i cosiddetti gufi, costretti appunto magari a risvegliarsi alle 8 del mattino, impiegano anche 2, 3, 4 ore per riattivare il proprio cervello, la propria corteccia cerebrale. E quindi questa è una cosa che comunque è da tenere in considerazione. Io non oso immaginare, ad esempio, un insegnante, un docente che deve fare lezione essendo gufo alle 9 del mattino, ecco, sicuramente non darà il meglio di se stesso. Pensi, poveri studenti. Ecco, per non pensare perché... addirittura adesso magari addirittura anche a persone che fanno magari chirurghi che appunto essendo gufi, ecco, questo chiaramente può comportare anche dei problemi insomma in quelle che sono le abilità appunto pratiche, e quindi è una cosa quella del cronotipo che va tenuta molto in considerazione. Professore, però è indubbio che dopo una notte, al di là della differenza tra gufi e allodole, se uno ha dormito bene dopo una prima iniziale difficoltà dovrebbe ripartire in quarta. Il risveglio difficoltoso potrebbe essere anche la spia, la cartina tornasole di una scarsa qualità del nostro sonno? Assolutamente sì, è vero. Molte volte appunto il fatto di non essere in grado di carburare, di star bene fin dall'inizio, subito dopo il risveglio, è indicativo appunto di una notte trascorsa non in maniera adeguata. Ecco, noi pensiamo in genere, ad esempio, pensiamo sempre al fatto che ci possano essere delle cause come quelle più banali, come l'arrussamento, le apnee che tendono a frammentare il sonno, e quindi chiaramente anche se il soggetto dorme 7, 8, anche 9 ore a volte, si sveglia comunque al mattino che è assolutamente, diciamo così, non riposato. Ma non sono soltanto le apnee, esistono anche altri disturbi come ad esempio gli scatti alle gambe, che avvengono appunto nel corso della notte ogni 30-40 secondi, e anche questi scatti vanno a compromettere quella che è la continuità del sonno, quindi creano questi micro risvegli e quindi questa è una ragione in più. Volevo citare questo tra l'altro un caso proprio che abbiamo valutato proprio pochissimi giorni fa, di un ragazzo giovane, sportivo, senza nessun tipo di problema, eccetera, che aveva notato che negli ultimi 2-3 mesi proprio non era, diciamo così, assolutamente insoddisfatto del proprio sonno, nonostante dormisse 7 ore e mezzo. Abbiamo registrato questo soggetto, abbiamo capito che c'erano tanti micro risvegli nel suo sonno, che caratterizzavano il suo sonno, e abbiamo capito che questi micro risvegli erano legati ad esempio a un locale notturno che era stato aperto nelle vicinanze della sua casa, e che chiaramente quindi con questo rumore, pur dormendo, lui non avvertiva di avere tanti micro risvegli che gli davano appunto questa sensazione di sonno non riposante. Professore, quindi in un certo senso per delle condizioni ambientali un'ipotetica allodola può trasformarsi in un gufo? Forzatamente può modificare quelle che sono le proprie caratteristiche, ma un'allodola sarà sempre pienamente soddisfatta se riuscirà a continuare per tutta la vita a fare l'allodola, e viceversa il gufo a fare il gufo, insomma, quindi poi ci si adatta, si cambia, ma sono sempre delle forzature. Ai miei ascoltatori chiedo di mandarci le loro ricette per un risveglio sereno all'800 24 00 24, ma come spesso facciamo vogliamo anche guardare un po' l'altra faccia della medaglia, e vorrei che mi raccontassi che cosa invece vi fa addormentare e in quali momenti della giornata avvertite proprio questo desiderio di appoggiare la testa magari sulla scrivania, o anche meglio sarebbe meglio fare un pisolino, il classico proprio, no? A biocco viene dopo pranzo, ma non solo. 800 24 00 24. Abbiamo Luca che ci chiama da Siena. Buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno, salve. Io avrei il piacere di raccontarvi la mia esperienza, perché sì, io ho sempre avuto sono di origine napoletana, quindi ho sempre avuto il complesso di essere un po' dormiglione, sì, e mi sono forzato anche durante l'università di imparare a studiare la mattina, però puntualmente a 15 giorni dall'esame, sì, io non ricordavo assolutamente nulla, mm, e dovevo studiare la sera, e la sera avevo una capacità di lettura e di memorizzazione elevatissima, e io facevo giurisprudenza, non avevo bisogno neanche di ripetere, e era l'unico modo per poter imparare le cose, e mi restavano scolpiti. Questa cosa ovviamente poi nel tempo non l'ho potuta, diciamo, valorizzare, perché facendo appunto l'avvocato non è che posso dormire la mattina. No. No. E anche se quando ho un atto complesso, quando c'è un caso da studiare, io mi riservo sempre comunque il tempo della sera, oppure nel fine settimana, quando posso aver dormito a sufficienza nel fine, perché proprio la mia velocità mentale, la mia capacità anche proprio di mettere insieme le cose è incomparabile con quella della mattina. Perché carbura di più di sera. Sì, però ci sono andato a fondo su questa cosa, ho fatto anche un esame per capire come mai il mio sonno fosse disturbato durante la notte. Mi hanno detto che c'è un tema di apnea innanzitutto, che sono un po' sopra la norma, perché sono circa 8 per ora e invece mi hanno detto che la norma dovrebbe essere 3 per ora. Sì. E ho fatto un po' di dieta perché mi hanno detto che quello poteva aiutare. Perché era un po' sovrappeso? Sì, ma questo da sempre, insomma. Sì. L'altra cosa che mi hanno detto è che, questa non l'ho capita molto, cioè che io ho dei movimenti delle gambe che sono automatici, sì, e questi disturbano la fase REM. E mi hanno anche detto questa cosa, è una cosa che a volte si cura con degli psicofarmaci molto leggeri, ma cominciare a 37 anni, certo, non è il caso. Non è il caso, dice. Ma sicuramente il professor Ferini Strambi sa, vero professore? Sì, lei, posso chiederle un favore? Perché purtroppo l'audio mi arriva fievolissimo, quindi non riesco. Allora, Luca ci ha raccontato tutta la sua storia, la faccio breve perché no, non so in quale parte, punto. La prima parte penso di averla capita. Ok, delle gambe che si muovono involontariamente in fase REM, e questo associato a delle apnee può giustificare la qualità del suo sonno. Gli hanno suggerito una terapia, ma Luca dice iniziare con gli psicofarmaci a poco più di 30 anni non mi sembra opportuno. No, certo. Allora, vero Luca? Dica avvocato se ho tradotto correttamente. No, perché sa, con un avvocato qua bisogna altro che con i piedi di piombo. Ma io sono un avvocato buono. Ah, va bene, allora Luca. Professore. No, ecco, ringraziamo l'avvocato perché ci ha dato la possibilità di parlare di una cosa interessante, che è questa. Allora, è possibile avere degli scatti alle gambe, diciamo così, in rapporto a delle apnee durante il sonno? Questo perché? Perché quando il soggetto va in apnea deve assolutamente cercare di risvegliarsi per riprendere il proprio respiro in maniera normale. Allora, in questa ripresa del respiro a volte ci sono anche questi scatti alle gambe che mi assicurano una maggiore certezza nel recupero immediato del respiro. Quindi allora questi sono scatti alle gambe che sono legati appunto al problema dell'apnea. In questi casi cosa bisogna fare? Non bisogna prendere dei farmaci per eliminare gli scatti alle gambe, ma bisogna cercare di fare una terapia per eliminare appunto le apnee, e quindi di conseguenza anche gli scatti se ne andranno. Quindi questa è una cosa importante, perché altrimenti non è tanto il fatto di dover prendere un farmaco per eliminare un problema, ma perché in questo caso il farmaco non servirebbe ad eliminare il problema, perché non è generato da altro. Certo. Esattamente. Allora, avvocato Luca da Siena, la ringrazio e la saluto per essere intervenuto. Voi, grazie, buona giornata. Anche a lei, adesso è tempo di andare a sentire i mercati, poi il meteo. Vi ricordo l'appuntamento quotidiano col Daily Lab, lo trovate sul sito di Radio 24 e nella pagina di Essere Benessere. Un team di esperti è a nostra disposizione, un team che ci aiuta e ci guida a prenderci cura di noi, della nostra salute, consigli quotidiani per stuzzicare e anche risvegliare la nostra voglia di cambiare e di adottare uno stile di vita più salutare. A proposito, io vi invito a compilare il questionario di Mangia con me. Per tutti voi che lo avete compilato e per quanti lo compileranno da oggi in poi, c'è la possibilità di ricevere a casa il regalo Sugar Box, una beauty box con le novità della cosmesi per il nostro benessere. Cosa fare? E naturalmente ascoltare Essere Benessere. Qua dovete stare. Quando sentirete questo suono, inviate un SMS al 349-238-6666 con la mail che avete utilizzato nella compilazione del questionario di Mangia con me. Sveglia e caffè, barba e bidet, presto che perdo il tram. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivato a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. E voi a che ora puntate la sveglia? E puntate la sveglia per svegliarvi alla mattina, 800 24 00 24, soprattutto come vi sentite. Professor Ferini Strambi, le ricette per un buon risveglio sono tante. C'è chi dice ad esempio di non mettere la sveglia, ma di svegliarsi da solo, sincronizzandosi con il proprio orologio interno. C'è del vero? Questo è possibile per molti individui, ma non per tutti, soprattutto i soggetti che sono abituati ad avere, diciamo così, un risveglio molto fisso legato al fatto di dover andare a scuola, dover andare al lavoro, dover prendere un treno. Ecco, molto spesso questi soggetti si abituano appunto a svegliarsi a un certo orario e poi questo orario veramente va a costituire quasi una sorta di sveglia del proprio orologio interno e quindi che si attiva dicono, purtroppo anche di domenica o quando non dovremmo andare a lavorare. Esattamente, esattamente. Ecco, io però lei, Nicoletta, su questo aspetto della domenica, io dico sempre non cerchiamo di fare delle grandi abbuffate di sonno la domenica, cioè quindi cerchiamo di essere sempre abbastanza regolari, quindi anche la domenica, pur chiaramente svegliandoci allo stesso orario, se siamo abituati a svegliarci a quell'orario, magari cerchiamo di stare a letto magari mezz'ora in più, un'ora in più, ma non di fare la grande scorpacciata di sonno, anche perché poi spesso il risultato è quello di svegliarsi poi con irritabilità e mal di testa, quindi è una cosa che va evitata, insomma. Regole, consigli per un buon risveglio, almeno consigli semplici dedicati a chi ha risvegli difficili. In linea con noi abbiamo Lisetta Landoni, presidente dell'Accademia Kriya Yoga di Milano, nonché esperto del nostro Daily Lab. Ciao Lisetta, benvenuta. Ciao Nicoletta, grazie. Allora, svegliamoci, sì. Consigli per domani mattina a questo punto. Dunque, svegliarsi prima di tutto col sorriso sulle labbra, perché tanto ci sono talmente tante scocciature in giro da sentire, almeno svegliamoci pieni di ottimismo. E poi soprattutto prendiamoci un momentino di calma, stiracchiamoci, allunghiamoci, rotoliamoci nel letto, sbadigliamo, soprattutto lo sbadiglio è una cosa importantissima, perché rimuove tutte quelle tensioni muscolari che possiamo aver accumulato durante il sonno. Perché non è che durante il sonno uno si distende del tutto, magari dorme tutto rattrappito e si sveglia la mattina e inconsapevolmente ha rigidità, difficoltà a muoversi. Quindi questo è un aspetto, il sorriso e pensare che quella sarà la giornata più bella di tutta la nostra vita e andiamo avanti. L'altra cosa molto importante è la colonna vertebrale, di cui non si parla mai abbastanza. È statisticamente provato che i danni peggiori uno se li può fare al mattino, danni in casa intendo dire, involontari, alzandosi la mattina e ad esempio si porta subito in bagno e si lava i denti, senza flettere un po' le ginocchia, oppure si abbassa per tirar su una cosa pesante. Ecco, questo indubbiamente è da sconsigliare. E allora cosa facciamo? Torniamo a letto, stiamo a letto, sì. Ci siamo appena svegliati, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo detto, benissimo, ci mettiamo carponi nella posizione detta del cane nello yoga, sì. E lì, quindi mani a terra e ginocchia a terra, iniziamo a muovere la colonna molto dolcemente, partendo dal basso, quindi come se volessimo portare i glutei verso il soffitto, sì. E contemporaneamente avviciniamo le scapole e solleviamo il mento. Tutto questo sull'inspirazione nasale, che è molto importante. Poi, sull'espirazione invece, facciamo una piccola antiversione col bacino, portiamo avanti, arrotondiamo il dorso, facciamo come i gatti quando sono molto arrabbiati, sì. E spingiamo il mento contro lo sterno, espirando. Ecco, procediamo così per 5-6 volte, fino a quando la colonna vertebrale diventa più morbida, più elastica, più calda, e allora a quel punto scendiamo, facciamo colazione, tutte belle cose. E quindi sbadigli, pensiero positivo, sbadigli e gatto, queste sono le tre regole. Ma cane e gatto. Cane e gatto. Il cane è il primo, il gatto è il gatto secondo. È il secondo. Li prendiamo tutti, l'arca di Noè. Sì. Senti Lisetta, sì. Però nel corso della giornata sì. Abbiamo tante volte dei cali di energia, la testa sì. Si fa pesante, ad alcuni può venire dopo pranzo, ad altri però anche a metà mattina, verso sì. Il pomeriggio tardi. Allora ho bisogno da te, perché noi parliamo di risvegli, sì. E non solamente di quello del mattino, ma quando proprio il risveglio dobbiamo risvegliare l'energia che è in noi. Sì. Ci sì, viene in aiuto lo yoga? 4, certo. Lo so, certo. Ci viene in aiuto lo yoga? Sì, sì, sì, per bacco. Allora, qui abbiamo due soluzioni. Una respirazione che ci dà tono e ci rinfresca anche, visto che sinora ci è stato negato molto il sole. Però, ecco, d'ora in poi speriamo, quando arriverà il sole e quindi il caldo, questa respirazione rinfrescante è ottima. Sì. Quindi ci sediamo nella posizione yogica se vogliamo, altrimenti su una sedia, però con la schiena ben diritta, quindi non infossati. Tiriamo fuori la lingua dalla bocca, attorcigliata, i testi dicono come una fogliolina fresca primavera, ecco, in modo che la lingua formi proprio una specie di canale da cui noi iniziamo a inspirare, facendo anche un certo rumore, come se succhiassimo del liquido da una bottiglietta, una cosa del genere. Ecco, invece inspiriamo aria da lì, non dal naso, attenzione, solo dalla bocca, e poi espiriamo dal naso. Questo è molto bello. È questa la lingua fogliolina, però non tutti riescono, perché io adesso sto guardando, ci sono Carmelo Lauricella, è capace, la Laura Vanossi non è capace, Miriam Lucchetti sì. Evidentemente ad alcuni, professor Ferini Strambi, non tutti riescono a piegare la lingua, vero? Devo dire che ci ho provato anch'io adesso in questo momento e non ce l'ho fatta, non so se... ma c'è per chi non piega la lingua e vuole ricaricarsi e risvegliarsi. Noi abbiamo la soluzione, anzi ce lo suggerisce Lisetta Landoni. Lisetta, che si fa? Quando non si riesce perché è un fatto genetico e quindi inutile stare a impazzire, allora semplicemente si porta la punta della lingua sul labbro superiore e si lascia un piccolo spazio, proprio un piccolo pertugio da cui si inspira da lì senza problemi. Professore, è la stessa identica cosa. Professore, ha capito? Ce l'ha fatta. Hai visto? Lisetta, ecco. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi tutti. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Abbiamo Benedetta dalla provincia di Viterbo, Giovanni da Milano, un altro Giovanni da Vicenza. 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci se avete dei problemi a risvegliarvi, se vi va giù un po' la testa, vi viene l'abbiocco durante la giornata, se avete dei consigli per risvegliare l'energia mentale, psichica, muscolare. Sentiremo naturalmente anche i consigli del professor Ferini Strambi. 800 24 00 24. Giovanni, buongiorno. Prima delle informazioni sul traffico. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Giovanni da Vicenza Giovanni da Vicenza. Bene. Un'informazione. Noi in famiglia siamo quattro fratelli e abbiamo notato che due non hanno nessun problema del risveglio al mattino, mentre gli altri due sono molto, diciamo, assonnati al mattino. Hanno difficoltà nel risveglio. E in più mio fratello ha proprio fatto un esame all'ospedale e hanno notato diverse apnee notturne. Sì. Come possiamo aiutarlo a riposare meglio e ad essere più, diciamo, facile nel risveglio del mattino? Soprattutto anche di buon umore, perché se uno si sveglia bene è anche di buon umore. Professor Ferini, le apnee durante il sonno, russiamo, tratteniamo il respiro? Ah, sì, molto, molto dipende anche, citava prima l'ascoltatore che suo fratello ha fatto l'esame per vedere quante apnee appunto si verificavano nel corso della notte. Ecco, direi il numero delle apnee è molto importante, perché è quello che poi ci fa anche decidere eventualmente come intervenire. Se un soggetto facendo l'esame scopre di farne più di 20 per ora di sonno, è chiaro che non bisogna sottovalutare il problema e cercare di rimediare, magari ad esempio con l'utilizzo di quella macchinetta che, mandando dentro dell'aria forzata, tiene aperte le vie aeree, quella che si chiama CPAP. Ecco, chiaramente questo va poi fatto sulla base di quella che può essere la scelta medica insieme al paziente, però ecco, se sotto le 20 apnee per ora possiamo dare dei consigli come quello di dimagrire anche soltanto 3-4 kg e questo può essere sufficiente, il fatto di dormire con un cuscino molto alto proprio per impedire, quando c'è il rilassamento dei muscoli durante la notte, impedire la chiusura delle prime vie aeree. Imparare ad addormentarsi sempre sul fianco, è chiaro che poi dopo cambieremo posizione nel corso della notte tante però volte. Possiamo mettere la pallina, oppure, esatto, possiamo vero? Mettere questa la, me palla sono, da la pallina da tennis. Io ormai la consiglio a tutti, guardi, a tutte le mie che amiche chiama... che si lamentano del marito russatore, io dico cuci nel pigiamino una pallina nella schiena, così lui si risveglia e si gira. È la terapia posizionale, soprattutto quando abbiamo i soggetti che fanno soltanto apnee, che russano solo in posizione supina, questa può essere una terapia, insomma. Quindi però tirate fuori le attrezzi del cucito. Certo, la cosa importante è non sottovalutare il problema, soprattutto se le apnee sono superiori appunto a 20 apnee per ora di sonno, perché le conseguenze possono essere, diciamo così, importanti. A tal proposito, se ho tempo un attimo, Nicoletta, volevo citare un recentissimo lavoro che è stato condotto negli Stati Uniti, che ha dimostrato come ad esempio anche le apnee e il russamento sono molto diverse nel corso della notte tra uomo e donna, perché ad esempio gli uomini fanno molte apnee soprattutto quando sono nel sonno profondo, quindi soprattutto nella prima parte della notte col sonno profondo, mentre le donne ad esempio nel sonno profondo fanno molte meno apnee rispetto agli uomini, anche se sono russatrici. Però lo facciamo con più stile, diciamo così, professore. Non le veniva la parola. Gliela... 800 24 00 24, c'è tempo per le vostre telefonate. Benedetta dalla provincia di Viterbo, buongiorno. Buongiorno, io sono molto sedotta e molto incuriosita dai meccanismi dell'addormentamento, di come si scivola in questa zona, in questa zona così di nessuno. E volevo due domande. A me accade di avere vicino a me una piccola radiolina che tengo molto bassa e ho scoperto che questa, che il suono della parola e non la musica mi aiuta ad addormentarmi, e poi io in genere dormo molto bene. Mi domandavo se è un fenomeno comune o se sono io completamente pazza. No, perché? Ma... No. Se poi avere nel sottofondo le parole... può turbare il sonno o no? A me sembra che non lo turbi affatto, ma mi incuriosisce proprio molto il capire perché non è mai la musica ed è sempre la parola. La parola, Radio 24. Nel corso della notte. Magari sanno anch'io, magari ascolta anche me, io l'accompagno. Professore, non la musica ma le parole, e soprattutto può essere una buona idea o in qualche modo può interferire con la qualità del nostro sonno? No, può essere una buona idea per facilitare l'addormentamento. Può non essere così buona come idea per la continuità del sonno, perché poi, a parte la prima fase quando il sonno è più profondo, ma poi quando il sonno si alleggerisce, se c'è uno stimolo sonoro questo può creare dei micro risvegli. Quindi l'ideale sarebbe avere una radio o un registratore con un temporizzatore che dopo magari pochi minuti, quando si è arrivati all'addormentamento, appunto si spegne automaticamente. Per quanto riguarda il discorso delle parole invece che il suono, ma ecco, questo non so chi ha avuto bambini piccoli, chi ha bambini piccoli l'avrà sperimentato, che a volte il bambino si addormenta molto più facilmente parlandogli che facendogli sentire il carillono della musica, no? Proprio perché sostanzialmente forse con la parola si tende ad avere, diciamo così, una maggiore un suono più monotono rispetto a quello della musica, che cambia magari in maniera più repentina, e quindi sicuramente questa continuità della parola con questo timbro così abbastanza pacato e non eccessivamente variabile può facilitare più facilmente, può facilitare l'addormentamento. Chi ha avuto orecchie per intendere intenda e si muova. 349-238-6666. Non posso dirvi di più, ma voglio darvi anche un consiglio a proposito di risvegli per risvegliare il vostro metabolismo. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Ongaro. Buongiorno e bentornato, dottore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Iniziare bene, risvegliare, metterci in moto, vuol dire anche mettere in moto il metabolismo, e questo ha delle ricadute sul nostro benessere, un po' a cascata, a catena. No, senza dubbio il risveglio non è soltanto un fatto, diciamo così, che riguarda la coscienza e la neurologia, ma anche il metabolismo intero. Noi proveniamo da una notte di digiuno in cui la glicemia si abbassa molto e dobbiamo avere molta delicatezza nell'accendere il nostro motore. Per questo io suggerisco di iniziare la giornata con un bicchierino di acqua calda, con acqua tiepida, con un po' di limone dentro, per esempio, che è proprio una sorta di rodaggio per il pancreas che può iniziare a rilavorare ha un andamento corretto, non troppo brusco, come può succedere invece se ci risvegliamo e facciamo la classica colazione con il cappuccino, con lo zucchero, il cornetto, la spremuta, che è una vera accelerata molto potente sul metabolismo e sull'attività del pancreas. Quindi un po' di delicatezza. Delicatezza, acqua tiepida con un po' di limone, questo ancora prima di prendere il caffè. Ma il caffè sveglia o non sveglia? No, il caffè senza dubbio sveglia, questo è un effetto direi anche piuttosto potente, diverso da soggetto a soggetto, però ha sicuramente un ruolo nei ritmi circadiani e nella sincronizzazione dei ritmi circadiani di risveglio, quindi un caffè alla mattina sicuramente ci sta. Grazie al dottor Ongaro, che ritroveremo insieme, ve lo anticipo, giovedì in una puntata tutta dolce, dottor Ongaro, vero? In tutta dolcezza. A modo nostro. A modo nostro, in tutta dolcezza. Grazie al dottor Ongaro. Grazie a voi. Professor Ferini, oggi abbiamo imparato la lingua fogliolina, abbiamo certo. E l'alternativa, l'acqua con un po' di limone, vede che. E poi tutti i consigli che ci ha dato il professor Ferini Strambi, ricordiamo anche la pallina per il russatore, non sottovalutate le apnee. Professore, grazie per essere stato con noi, è sempre un piacere. Grazie a voi a tutti gli ascoltatori. Grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani. Potete riascoltare la puntata scaricandola dal nostro sito, visitare il nostro sito, mandarci le ricette di Mangia con me, ci sono delle iniziative, scriveteci. Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Miriam Lucchetti e Laura Vanossi in redazione. A domani.